in primo piano. In questo mercoledì 23 giugno l'apertura quasi unanime è quella su Pomigliano, con i lavoratori che hanno per il 95% votato al referendum per scegliere se sì all'accordo proposto da Fiat e sottoscritto dalle varie sigle sindacali, tranne la FIOM. L'approvazione è abbastanza con il 63% circa. Pomigliano approva il piano Fiat, questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Le aperture però sono abbastanza uguali: a Pomigliano la vittoria dei sì per il Corriere, Pomigliano verso il sì all'accordo per Repubblica, Pomigliano vince il sì per la Stampa, Pomigliano la vittoria dei sì per il Messaggero, insomma quasi uguali come vedete. Gli unici che si differenziano sono il Manifesto, mette nella foto una serie di operai proprio che stanno entrando nella fabbrica di Pomigliano, voto a perdere, mentre l'Unità mette una foto di Ingrao che nel 78 arringava gli operai proprio a Pomigliano con la dicitura ieri, oggi invece la foto di oggi e domani, si chiede l'Unità. Insomma, come detto, questo che è anche il tema di Oscar Giannino 9 in punto è trattato ampiamente sui giornali. Il Riformista gioca anche con Pomigliano e il titolo d'apertura è Pomigliassi invece che Pomigliano. Come detto, sul Sole 24 Ore Pomigliano dice sì a Marchionne. C'è anche un'intervista che è stata fatta a Enrico Letta del Partito Democratico da Luca Ostellino a pagina 2. Voto responsabile, ma questo caso fa storia a sé, dice Enrico Letta. La posizione che lei ha assunto ieri è quella del sì all'accordo, è la posizione del PD, dice Letta in maniera abbastanza decisa, anche se in realtà non è proprio così. Proprio ieri anche la presidente del PD Rosy Bindi in realtà ha detto di non essere proprio completamente d'accordo con questo sì al referendum. È la posizione del PD, invece, dice Enrico Letta, che si può riassumere con la necessità che l'accordo passi e salvaguardino gli investimenti Fiat, tenendo però conto della situazione eccezionale di Pomigliano. L'intesa non può infatti rappresentare un modello ripetibile e dipende dalle caratteristiche specifiche di quella situazione e di quello stabilimento. Qui è, diciamo, il succo del pensiero di Letta, cioè va bene questo accordo, ma che non sia un qualcosa di ripetibile in larga scala, che è un po' quello che è l'allarme lanciato da chi è contrario a questo accordo, cioè che si cambino così, ci siano delle deroghe ai contratti dell'istituto di lavoro sulla base appunto di questo sì. Il Sole 24 Ore raccoglie anche gli umori e le sensazioni al di fuori dei cancelli. Ci sono per esempio: perché ho votato a favore, perché ho votato contro, invece Natalia, nome di fantasia, che dice: mi sono sentita offesa da Marchionne, visto che io in 15 anni di lavoro ho fatto una settimana di malattia, sentirmi dare dell'assenteista mi ha fatto spingere per votare no. Sono testimonianze raccolte da Paolo Bricco, che da giorni è uno degli inviati che sta seguendo la vicenda. Repubblica invece va a sentire chi? Pier Carniti, ex segretario della CISL negli anni, diciamo, 69, soprattutto, insomma, a cavallo tra gli anni 60 e 70, il quale, alla domanda lei avrebbe firmato questo accordo su Pomigliano, dice: io credo che non bastino le firme o una vittoria dei sì per chiudere questa vicenda. Non c'è stata trattativa. La Fiat ha stabilito delle condizioni, poi ha detto prendere o lasciare. Più che di accettazione si può parlare di capitolazione, di resa. E ancora Carniti ricorda: io ho firmato anche accordi pessimi come quello della Fiat dell'81, può succedere di doversi arrendere, non volli lasciare l'ama da solo, qui più che a firmare, vista l'assenza di trattativa, ripeto, avrei preso atto. Mentre il Sole 24 Ore va a con uno sguardo un po' anche di più ampio respiro, capire che cosa succede in Europa. Ecco, allora, pagina 5, Andrea Malan racconta, per esempio, gli accordi a confronto. Cioè, non è che c'è solo il lingotto. Per esempio, la Renault. Cosa succede per i più grandi costruttori mondiali per contrastare la recessione, i più grandi costruttori mondiali di automobili? La Renault ha introdotto nel 2008 come strumento di flessibilità il contalavoro, cioè una banca delle ore lavorate che permette di accumulare le ore di straordinario per compensare i periodi di minor carico, evitando così la riduzione del salario in casi di cassa integrazione. La Peugeot L'anno scorso ha raggiunto coi sindacati, ma non con un sindacato, la sigla comunista CGT, un'intesa sulla prevenzione dei rischi psicosociali che prevede una serie di misure di adeguamento della linea di montaggio ai principi della produzione snella alla giapponese. La Volkswagen, che a Wolfsburg ha aperto la strada alle intese sulla flessibilità quasi 20 anni fa, la Toyota, la Opel, la Mercedes, cioè che cosa si fa, quali sono gli accordi per preservare la produzione da un lato, preservare i posti di lavoro e per così tenere comunque il passo anche ai tempi che cambiano. Sul Corriere della Sera, pagina 3, si descrive lo stato d'animo di Marchionne, che non sarebbe uno stato d'animo totalmente positivo, cioè la scommessa. Sergio Marchionne scrive: Federico De Rosa non l'ha ancora vinta. È vero che sono arrivati i sì, ma questo è solo il primo passo per capire e decidere se investire quei 700 milioni per portare la produzione della nuova Panda appunto a Pomigliano d'Arco. Una maggioranza bulgara rappresenta l'unica garanzia, una maggioranza bulgara cosiddetta, cioè un 90% di più, che però non c'è stata. Ed ecco allora Marchionne, che ieri era chiuso nel lingotto ad attendere i risultati, ora partirà oggi con gli Stati Uniti e lì c'è il raffronto con il sindacato, che fa sapere il Corriere è uno solo e che si è seduto già al tavolo per trovare con Marchionne la migliore soluzione per tenere in vita Chrysler. Poteva succedere anche qui, ma è mancato il sì della FIOM. E a Marchionne, comunque, scrive appunto il Corriere, non è piaciuto il gran clamore che ha accompagnato il referendum, caricandolo di significato. E tra l'altro ecco qui che il Corriere ricorda la posizione, per esempio, di Rosi Bindi, presidente del PD, dicendo il PD si divide, quindi contraddicendo quello che Letta dice, questa è la linea del PD. La presidente Rosi Bindi ha detto: non si può pagare il lavoro barattandolo con meno diritti, incalzando così imprenditori e sindacalisti. Comunque, alle 9 Oscar Giannino, mentre alle 8:30 il nostro sondaggio è quello sulla Padania. C'è un Bossi che ieri, parlando in transatlantico ai giornalisti, ha detto quelle che Libero definisce una padanata di Bossi. 10 milioni pronti alla rivolta. A dire la verità, rivolta forse non è il termine che ha usato, ha detto sono pronti a battersi per la Padania. Si spera e si vuole assolutamente pensare, battersi in maniera democratica, civile, per una battaglia in cui i padani, se esistono, credono. Bossi, 10 milioni pronti alla rivolta. E poi l'altra frase che, insomma, quando gli italiani si tocca il calcio è: Bossi e la nazionale domani comprerà la partita. Domani la partita decisiva con la Slovacchia per passare agli ottavi di finale. E ovviamente, insomma, si è ribaltata la situazione, cioè i titoli sono più su questo, sul calcio, piuttosto che il conflitto confini. Perché poi il Corriere infatti mette così: Bossi e la nazionale domani comprerà la partita, titolo principale, sotto 10 milioni di padani pronti a battersi. Ecco, battersi, questa è la parola che ha usato. Mentre Fini ha risposto: al nord servono meno tasse, non le camicie verdi. E poi ha detto: andrò di più al nord, forse, quindi recependo un po' l'accusa che dal nord hanno fatto a Fini: non vive sul territorio, non capisce la Padania perché non la conosce, non ha radici politiche qui, non conosce questo territorio. Ovviamente la Federcalcio è indignata a Bossi, passato il segno, gli ex campioni dell'82, il corruttore sarà lui. Vabbè, insomma, il clima è questo che è quello che è, con la Padania che dedica in prima pagina Bossi: la Padania esiste, i voti del nord sono nostri, due pagine all'interno. Comunque questo è il tema del nostro sondaggio, che ne pensate? Fini dice la Padania non esiste, non è mai esistita, siete d'accordo? È poi una questione anche politica di cui discuteremo alle 8:30, come la notizia, o meglio l'intervista politica del giorno. Oggi non la trovate sui quotidiani, ma sul settimanale Oggi, dove esonda un Silvio Berlusconi in 10-12 pagine corredate in questa intervista di Umberto Brindani. Tra l'altro uno continua e quindi continuerà, immagino, nelle prossime puntate, una sorta di Berlusconi Confidential, un Berlusconi ritratto in foto, ma anche di 30 anni fa, 40 anni fa, ma addirittura Berlusconi neonato, e quindi un po' tutta la vita di Berlusconi, una lunghissima intervista. Parla non solo dell'attualità, ma parla anche insomma, della sua vita privata, per esempio il primo matrimonio con Carla Dall'Oglio, dice è una gran mamma, una gran signora, si è comportata sempre con ammirevole riservatezza, è stata ed è la migliore mamma per i miei figli. E invece il matrimonio con Veronica, il divorzio da Veronica è stato per me più doloroso rispetto a quello con Carla. Alcuni passaggi della vicenda mi hanno ferito, ma non voglio più tornarci sopra. Parla di Montanelli, che mi ha ferito dolorosamente la sua scelta quando scesi in politica di esprimere non il legittimo dissenso, ma una inutile polemica in memore del suo passato di protagonista della libertà. Parla di Craxi, ci sono delle foto che lo ritraggono con Craxi. Parla anche poi dell'attualità, la legge sulle intercettazioni. Non mi risulta che gli italiani pensino che sia una legge per proteggere la casta, anzi, la stragrande maggioranza è d'accordo con l'assoluta necessità della legge. L'obiettivo vero è porre fine a un sistema di abusi che in tanti anni hanno di fatto cancellato il diritto alla privacy. Confini, per fare la pace ci deve essere una guerra, mentre io non sono mai stato in guerra con nessuno. Anzi, dico sempre, mi faccio concavo o convesso a seconda dell'interlocutore. Sul Milan bisognerebbe capire per venderlo se qualcuno è disposto a vendere 50 milioni di euro. Insomma, c'è un Berlusconi, ripeto, che parla a tutto tondo con le foto da quando è neonato, un po' anche Berlusconi giovane, Berlusconi che truccato come Humphrey Bogart, ritratto, i figli di Berlusconi. E poi c'è questa frase, sicuramente diciamo la chicca dell'intervista, un po' così anche curiosa: è vero che sua madre scrisse l'epitaffio per il suo Silvio? È vero. Una volta a cena ci scherzammo e il mattino dopo mi portò un foglietto su cui aveva scritto seriamente la frase che lei avrebbe voluto fosse scolpita sulla mia tomba. Ed è questa: fu un uomo buono e giusto, dolce e forte. Grazie mammina, le dissi, cercherò di essere proprio così. La ricreazione è finita, questa è la frase che Tremonti ha detto per far capire che la manovra basta con gli sprechi. Le regioni oggi spingono e incontrano Tremonti per ottenere meno tagli, i magistrati scioperano, i sindaci si apprestano a scendere in piazza anche loro oggi con il lutto al braccio, ma il messaggio di Tremonti è questo: indietro non si può tornare, la ricreazione è finita. E oggi a questo proposito è un imperdibile l'articolo a pagina 5 del Corriere della Sera di Sergio Rizzo che ricapitola gli sprechi delle regioni, in questo caso sulla cosiddetta diplomazia fai da te, spese pazze, 178 sedi nel mondo per le nostre regioni. Pensate, il Veneto, il leghista Luca Zaia si è trovato a governare una regione che ha 10 uffici solo in Cina, 10. E poi poteva forse il Veneto rinunciare a un ufficio in Bielorussia, un appartamento in Bosnia, un paio di punti d'appoggio in Canada, 3 in Romania, 4 negli Stati Uniti, 4 in Bulgaria, un piede a terra in Vietnam, un appartamento in Uzbekistan, una tenda negli Emirati Arabi Uniti, un bungalow a Porto Rico, un consolato in Turchia? Fanno 60 sedi in 31 paesi, più quella di Bruxelles, dove tutte le regioni ci sono. Le regioni italiane hanno qualcosa come 157 uffici più i 21 di Bruxelles, un totale di 178. Il Molise, che senso ha per una regione con 320.000 abitanti mantenere un ufficio a Bruxelles pagato 1.600.000 euro, oltre ai due uffici di Roma? Il Piemonte presidia 23 paesi esteri, case Sicilia dovunque, dalla Pampa Argentina a Parigi, in Tunisia, New York. Volete mettere il fascino della grande mela? Insomma, fa quasi tenerezza, scrive Sergio Rizzo. Gli ultimi in classifica, il Friuli Venezia Giulia, si accontenta di 3 consolati oltre a quello europeo, in Slovacchia, Moldova e Federazione Russa. La Basilicata, andata in soccorso ai Lucani di Uruguay e Argentina. La Valle d'Aosta, che non sazia della sede di Bruxelles, ne ha pure una in Francia. Il sospetto, diciamolo pure, che nella maggior parte dei casi l'utilità di tutte queste feluche di periferia sia perlomeno discutibile, scrive Sergio Rizzo. A proposito di regione, attenzione, segnatevi questa data, il primo luglio tra poco, perché il primo luglio il TAR del Piemonte dovrà esprimersi sul ricorso di una serie di liste che vogliono l'annullamento del voto regionale del Piemonte con l'elezione del leghista Cota. Cota è arrabbiatissimo, da giorni parla di golpe. Se ci fosse questo annullamento sarebbe un golpe. Per usare un eufemismo, i piemontesi non la prenderebbero bene, ieri ha detto Roberto Cota in consiglio regionale. In serata ha rincarato la dose, i golpe gli fanno in Sud America, se accadesse qui sarebbe una rivolta, non è facile rubare le elezioni. La questione è che ci sono delle liste le cui firme sono state contestate, alcune di queste firme pare siano palesemente false, per esempio secondo Repubblica in una lista pensionati per Cota, che ha anche eletto credo un consigliere regionale. Ci sarebbero elementi sufficienti per l'annullamento, questo secondo i rumors dell'ambiente politico. Ecco perché Cota da alcuni giorni dice assolutamente sarebbe vergognosa queste cose. Oh, io voglio andare a due segnalazioni conclusive, una la trovate su tutti i giornali per avere un ampio respiro anche un po' internazionale, è questa. Che ha combinato il generale McChrystal, che è il generale in capo delle forze armate in Afghanistan per gli Stati Uniti? Il comandante americano Stanley McChrystal, lo leggo dal foglio ma c'è su tutti i giornali, il generale di troppe parole, ha rilasciato un'intervista al quindicinale Rolling Stone e si è lasciato scappare commenti devastanti contro l'amministrazione Obama. Tanto che Obama l'ha subito convocato e dovrebbe avere i giorni contati. Si è subito scusato, ha licenziato il suo ufficio stampa, ma il pezzo firmato dall'inviato Michael Hastings è incredibile. Stanley McChrystal ha preso il controllo della guerra senza mai perdere di vista il vero nemico, i mollaccioni della Casa Bianca. Questo è l'esordio. E poi gli hanno chiesto Biden, che ne pensa di Biden, il vicepresidente? Lui, Biden chi? Ha fatto finire. Biden, forse voleva dire bite me, che vuol dire mordimi, ma anche nello slang americano ciucciamelo. E poi ha definito un pagliaccio l'ex generale Jim Jones. I senatori John McCain e John Kerry arrivano, incontrano Karzai, lo criticano e poi vanno ai talk show domenicali, così non ci aiutano. Insomma, parole clamorose nei confronti dei suoi comandanti in capo, l'amministrazione Obama e i suoi collaboratori. È stato richiamato, pare verrà silurato. McChrystal, siluro a Obama, è anche un bel reportage di Marco Deramo, sempre molto attento alle cose d'America, sul manifesto in prima pagina e poi all'interno. Mentre concludo con questa segnalazione, che ti ha messo il settimanale o mensile, credo, mensile Max, quello che fece già l'intervista Scalpore a Morgan e la droga in edicola venerdì, ha messo in prima pagina la foto di un cadavere ritoccato all'obitorio, con tanto di targhettina che pende dall'alluce del piede sinistro, una finta foto, hanno ammazzato Saviano. È la foto di Roberto Saviano. La finta foto shock di Saviano morto a pagina 20 della Stampa, pubblicata per provocazione da Max, stufi di sentirlo attaccare da gente come Borriello, l'attaccante del Milan. Non sappiamo che ne pensa, lo abbiamo avvertito anche se non direttamente che faremo questa uscita con Photoshop questa cosa. Non sappiamo che ne pensa, davvero non sappiamo come l'abbia presa. L'ha presa veramente male invece Benedetta Tobagi, figlia di Walter Tobagi, che in prima pagina di Repubblica la foto che non aiuta Saviano, sicuramente ci saranno polemiche da qui ai prossimi giorni. Ripeto, Max uscirà con questa foto ritoccata di Roberto Saviano steso su un lettino da obitorio, cadavere, con il titolo «Hanno ammazzato Roberto Saviano».